Radio 24 Reportage. Genova in ginocchio per l'alluvione, di Cristina Carpinelli. Contrariamente a quello che è successo decine di altre volte, noi, i nostri centri di eccellenza, di previsioni, non sono riusciti a prevedere. Non sono riusciti a prevedere il fenomeno, dice così il presidente della regione Liguria Burlando la mattina dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio di nuovo Genova. Sono le 21:30 di giovedì sera. I genovesi, che si trovano in giro, vengono letteralmente travolti dalla pioggia, violentissima. Tra loro c'è anche il primo cittadino di Genova, Marco Doria, che si trovava al Teatro Carlo Felice per l'inaugurazione della stagione lirica. In pochi minuti la pioggia ingrossa il torrente Bisagno. Passano altre due ore, ma ancora nessuna allerta, come raccontano i genovesi al microfono di Andrea Ferro. Guardavo, cosa potevo fare? Non potevo fare nulla, ero alla finestra. Quando ho visto che il Perreggiano è calato, sono venuto giù a vedere qua se c'era bisogno di una mano. E siamo rimasti qua, a scopare, a pulire con le mani, senza nessuno che si vedesse. Ma l'allarme in questa strada, c'è un allarme che c'è un allarme che hanno installato due anni fa, però non si sa come, non come, ha suonato a mezzanotte e mezza. Cioè con mezz'ora di ritardo? Con mezz'ora di ritardo, fino alle 4 del mattino ha sempre suonato. Ma vi siete sentiti un po' abbandonati? Sempre state abbandonate, ma non come abbandonate perché alluvionate, abbandonate perché siamo cittadini, ma non si sa se siamo di serie B o di serie C. A casa però abito in via del Monte e già ci siamo accorti che veniva troppo forte, veniva giù il fiume là dalla Crosa perché viene troppa acqua da sopra. E quindi cosa avete fatto? Niente, cosa abbiamo fatto? Non siamo usciti di casa e niente, abbiamo aspettato che si abbassasse un pochettino, ma più di quello non si poteva fare. Questa volta non c'è stato nessun tipo di allerta preventivo? Assolutamente no. Assolutamente no, infatti la gente non ha spostato i mezzi ed è successo un macello qua. Anche i commercianti qua sono in ginocchio di nuovo perché, come vede anche qua dentro, le moto sono tutte allagate e la gente è sempre alle solite che deve cercare di riparare quello che si può. A mezzanotte, mentre la città assiste dalla finestra, il Bisagno esonda, trascinando con la sua furia macchine, autobus in servizio che per ore restano intrappolate tra fango e pioggia. Ancora una volta è la Val Bisagno la zona più fragile a essere in ginocchio. Poco dopo la mezzanotte inizia a straripare anche il torrente Ferreggiano, nel quartiere di Marassi, che il 4 novembre del 2011 esondò, provocando 6 vittime. L'acqua trascina via alcune auto parcheggiate, cartelli stradali. Quando arriva nel quartiere la Protezione Civile e i Carabinieri, gli abitanti fischiano e urlano, esasperati dal senso di abbandono che hanno percepito ancora una volta. È successo che prima è uscito il Bisagno fuori, quindi probabilmente otturando l'entrata del fiume è uscito anche il Ferreggiano. Quindi qua si è allagato tutto, è incominciato a venire giù bidoni, moto, di tutto, è venuto giù di tutto. Allora, la preoccupazione è che io con l'ansia, siccome ho vissuto quella del 2011, sono rimasta scioccata dalla finestra, ho detto qua risuccede la stessa cosa. È impossibile che qui c'è un cartellone che è una settimana, che praticamente ha scritto sempre le stesse cose. Un display luminoso, è sempre uguale. Sai cosa c'è scritto? C'è scritto Protezione civile Genova. Basta, non c'è scritto altro. Eppure questa doveva essere una zona particolarmente monitorata, no? Il mio negozio, tutto allagato. Il negozio ha, signora? Frutta e verdura. Altri danni? Completamente, tutto in aria è. Prego, venga, si avvicina al microfono. Andare in negozio, ma ieri sera non c'è stato un vigile a questa piazzetta. Nessuno. Protezione civile, nessuno. Ma questo pezzo qua non c'era nessuno, non è venuto a vedere nessuno. La stessa situazione di 3 anni fa, qui alla Spera in Dio, cerchiamo di sperare che le cose non peggiorino, ma nessuno interviene per sistemarle. Ma secondo voi cos'è che non funziona? Cioè non c'è sensibilità? Tutto. Non c'è organizzazione? Tutto. Ecco, bravo, non c'è organizzazione. Non fanno niente. Non c'è stata data l'allerta, non serve niente, nessuno, poi all'improvviso è venuto giù tutto il mondo. Ma questa ARPA qua, cosa servono? Chi è in giro rischia la vita e non lo sa. Accade a un uomo di 57 anni, travolto dalla furia dell'acqua. Il corpo sarà ritrovato davanti a una fermata dell'autobus, tra macchine ammassate e muri sfondati. Si trovava a Borgo Incrociati e i genovesi davvero non ne possono più. È successo che se... Per la seconda volta dopo il 4-2011 siamo di nuovo allo stesso punto di prima, non è stato fatto assolutamente niente e ci ritroviamo di nuovo con 3 metri di acqua all'interno del locale. Abbiamo il locale completamente distrutto, tutto con le macchine in aria, non sappiamo neanche se riusciremo più a le riaprire. Qua abbiamo un vicolo che non è mai stato pulito assolutamente, è crollata giù una parete della casa di fianco, abbiamo avuto per 5 mesi tutte le macerie lì dentro, nessuno se ne è fregato. A che ora avete visto l'acqua qua? Qua alle 11:30, io sono andato a riprendere il furgone che ho il garage qua in via Canevari e dopo 5 minuti è esondato tutto, però non c'era né allarmi né niente, nessuno ci ha avvisato, è stata una cosa... vergognosa, è una bomba d'acqua grossa. 2 metri? Sì, sì, sì, perché casa mia è stata invasa e sono 2 metri. Secondo lei quindi è mancato completamente un minimo di allerta? Un minimo di allerta non c'è stato, la gente è scappata proprio di corsa, non c'è stata allerta, almeno televisione niente, radio niente, di solito passano con le macchine, nessuno, non si è visto nessuno. Ora si spala fango. Sì, e non poco, e non è finita purtroppo. Per tutta la notte in prefettura resta aperta la sala emergenze per monitorare la situazione. L'allerta resta alta, anche tra Savona e le Cinque Terre. Si chiede aiuto a quei volontari che nel 2011 spalarono il fango, gli angeli del fango. In ginocchio i commercianti e gli imprenditori. Tra loro c'è anche chi ricorda l'alluvione del 70. L'acqua è arrivata, diciamo, ha preso tutta la zona antistante Brignole, inizio via San Vincenzo, inizio 20 settembre e tutta la zona di Borgo Incrociati e via Canevari. Senta, lei è un commerciante genovese, come si fa a convivere con questa situazione che perennemente vi rimette in ginocchio, vi rimette in una condizione... Infatti, guardi, è sempre il solito dramma. Il problema grosso è il bisagno. Il bisagno andrebbe pulito costantemente. La settimana scorsa non c'era un filo d'acqua, c'erano i prati e naturalmente gli alberi dappertutto. Quindi naturalmente quando succede questo, come ieri sera, esonda in quel punto lì zona Brignole e automaticamente allaga tutta la zona di Brignole e dato che poi quel punto lì tende ad andare in discesa verso via San Vincenzo, via 20 settembre, allaga anche quelle zone. E dalla parte invece di Borgo Incrociati ancora peggio, perché proprio lì dove esce il bisagno è la zona di Borgo Incrociati. No, il problema grosso è che hanno dato l'allerta alle 11:15, cioè l'allerta grossa avrebbero dovuto darla molto prima, cosa che non hanno fatto. Questa che vi raccontiamo non è però una semplice storia di cambiamenti climatici, maltempo e mala gestione del territorio. Qui c'è anche una bella fetta di burocrazia a far peggiorare il quadro. La storia che amareggia lo stesso presidente della regione Liguria Burlando e che ha a che fare con la mancata messa in sicurezza del torrente Bisagno e che ci racconta così. L'amarezza che ci colpisce, che ci tormenta, perché questo fiume, il Bisagno, è da tanto tempo un fiume che provoca guai, 70 quando eravamo ragazzi e poi anche più recentemente, da alcuni anni a questa parte sono stati fatti tutta una serie di lavori di messa in sicurezza e ogni volta che se ne fa un pezzo si vede poi che la capacità di addivento è piena e migliora in modo sensibile. Da 3 anni abbiamo soldi per fare un altro pezzo che probabilmente sarebbe, se eseguito, ha dato una mano ulteriore a diminuire i danni o forse addirittura le vittime. Sono 3 anni di seguito, quei 35 milioni non possono essere spesi per pronunciamenti consecutivi della giustizia amministrativa sui ricorsi di parte, uno contraddittorio rispetto all'altro, e che hanno bloccato costantemente quest'opera. Questo è veramente un tormento che ci... l'ultima motivazione di sentenza di pochi giorni fa Adesso chiederemo se in base a questa motivazione noi possiamo consegnare i lavori, anche se pende ancora un giudizio, l'ennesimo giudizio, in Consiglio di Stato su questa affare all'infinita. Ho scritto molti mesi fa al Presidente del Consiglio segnalando come uno dei casi in cui neanche il rispetto della vita umana, neanche l'esigenza di mettere in sicurezza impedisce a una serie di concatenate, di ricorsi, di controricorsi, di gente che vince, di gente che perde, di usare risorse pubbliche collocate lì, evidentemente nella consapevolezza di una situazione difficile. E neanche in questo caso, adesso ripeto l'ultima ma non conclusiva sentenza, pochi giorni fa abbiamo avuto tre pronunciamenti diversi tra Liguria, Consiglio di Stato, tra Lazio, ognuno dei quali ribalta la decisione precedente. Per farvi capire di cosa parliamo, a gennaio 2014 il Consiglio di Stato giudica incompetente a decidere il Tribunale Amministrativo della Liguria che, nel settembre 2013, aveva stabilito che i tecnici autori del progetto per la messa in sicurezza del fiume erano incompetenti a loro volta. La palla torna dunque al commissario incaricato dal Ministero per gestire 35 milioni, che però nel frattempo si è dimesso dopo che il TAR Ligure aveva accolto il ricorso del gruppo di imprese contro la gara d'appalto da lui indetta. La vicenda, tra colpi di scena e disarmanti strafalcioni, procede sino ad oggi. I genovesi dicono che quest'anno l'emergenza Bisagno festeggia 40 anni, con all'attivo 3 alluvioni, l'ultima, quella che vi stiamo raccontando. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.